stato condiviso da parte del Presidente del Consiglio della Repubblica il consenso che ha ricevuto la Lega e quindi il mandato popolare a realizzare degli obiettivi. E quindi è per quello che siamo qui, non per altro. Direi che abbiamo dei ministeri con obiettivi ben precisi, da una parte quelle riforme che ormai attendono da 48 anni, un ministro che garantirà la sicurezza e la possibilità di vivere meglio, un ministero come il mio che dovrebbe rendere più facile la vita e togliere di mezzo tutti quelli che sono i grattacapi per la gente e i costi conseguenti ad essi.